Etavente è un prodotto innovativo che è sviluppato attraverso un importante lavoro di ricerca, di collaborazione, dal tessuto utilizzato ai filtri, all'ergonomicità della mascherina, al packaging. Questo progetto cerca di tenere assieme l'attenzione alla salute per contrastare questa pandemia, il rispetto per l'ambiente, riducendo in modo significativo i rifiuti prodotti e il lavoro per le persone più fragili e più vulnerabili. Darei la parola a Rossano Ercolini di Zero Waste Italia. Tutti noi sappiamo quanto la questione ambientale, lo ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres, e la pandemia siano legate. Oggi è impossibile non riconoscere che la questione ambientale sia la madre di tutte le questioni. Dobbiamo riconoscere che l'impatto delle mascherine è estremamente rilevante. Il problema è che queste mascherine contengono microplastiche, specialmente sotto l'azione del sole, si trasformano immediatamente in microplastiche che finiscono nei fossi al fiume e dai fiumi ai mari. Quindi in un momento in cui abbiamo da fronteggiare il problema della plastica nei mari, il problema degli rifiuti legati alla pandemia, credo che oggi bisogna passare dalle parole ai fatti. Abbiamo cercato e stiamo cercando di sensibilizzare le istituzioni, in particolar modo i nostri 312 comuni rifiuti zero che rappresentano 7 milioni di abitanti, questo lavoro che coniuga sicurezza sanitaria e bassissimo impatto ambientale. È un lavoro non comune, è l'unico cruccio. Le istituzioni pubbliche ci avrebbero dovuto dare una mano. Avrebbero dovuto guidare questo percorso, ma non è mai troppo tardi. Darei la parola a Joan Cruz, è il motore di questo progetto, diciamo così. Secondo noi era importante trovare due modalità, come poter diminuire i rifiuti e anche poter dare un servizio di lavaggio della nostra mascherina, sempre per dimostrare e provare di dire che nel lavaggio e la sanificazione delle cose è la miglior formula per evitare l'usa e getta. Un meccanismo per trovare una mascherina che si poteva usare lavandola ma anche noleggiandola. La cosa importante di questa mascherina sono i tessuti che abbiamo utilizzato ma anche i filtri che soprattutto in questo caso l'università e nel dipartimento hanno inserito in che noi ricercassimo il miglior modo di ottenere dei filtri intercambiabili. È un progetto che intreccia più obiettivi di quell'agenda perché indica come tenere insieme, lo dicevate in apertura, la tutela della salute delle persone, un tema di sicurezza quindi sanitaria, con la tutela del nostro pianeta. Mascherine lavabili e riutilizzabili, però ad ora invece qui si è dovuto trovare il compromesso con questo filtro intercambiabile e la mascherina completamente lavabile. Quindi diciamo un prodotto che in qualche modo tiene insieme questo, sceglie materiali meno impattanti e complessivamente prova a ridurre la quantità di rifiuti prodotti, che è un altro grande tema di sfida. Non solo lo fa scegliendo di provare a indicare una via di riduzione dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali, ma lo fa dando del lavoro a lavoratrici e lavoratori fragili, coniugando l'economia circolare con il tema dell'inclusione sociale. Ecco, questa è proprio la via su cui ricostruire un futuro che sia più equo e più sostenibile.